Siamo rientrati in diretta, abbiamo fatto un mega mix fra The Space Network, passando per Gas dall'album Königsforst, uscito nel 1998 per la Mill Plateau, e arrivando a Murkoff dall'album Martes del 2002. Beh, sicuramente diciamo due cose su Gas, progetto che si è sviluppato a fine anni 90, soprattutto con le produzioni dell'etichetta Mill Plateau, che noi di 451 frammenti sonori fin dai primi anni zero abbiamo seguito molto, anche perché il suo glitch, la sua techno glitch e le sue sperimentazioni che intrecciavano elettronica, aspetti minimalisti e dimensioni in alcuni casi anche che richiamavano l'elettronica sperimentale degli anni 50 e 60, quella più legata alle avanguardie, alla contemporanea, ovviamente spostate e declinate negli anni 90 e alla fine appunto di quel decennio, di quel millennio e in apertura del nuovo millennio. Mill Plateau, che poi negli ultimi anni ha prodotto sempre di meno, ha avuto il suo massimo splendore tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 0, e Gas in particolar modo è stato seguito dall'etichetta soprattutto nei primi album. Poi diciamo che come progettualità, almeno come Gas, che poi in realtà è un progetto costruito dal tedesco Wolfgang Voigt, tedesco di Germania e proveniente da Colonia, ha sviluppato quattro album sempre usciti per la Mill Plateau fino all'inizio degli anni zero, per poi far uscire soltanto due EP sempre all'inizio degli anni zero e chiudere diciamo la sua produzione musicale nel 2008 fino ad ora con l'ultimo album Nat und Fern, che però non è sicuramente brillante come è stato nel disco che abbiamo appena ascoltato, cioè Königsforst, ma anche negli altri album uscito per la Mill Plateau. Da Gas siamo arrivati invece poi a Murkoff, autore che abbiamo oltretutto inserito qualche puntata fa in 451 Intersezioni, in arte Murkoff, ma in realtà Fernando Corona, musicista estremamente interessante della scena messicana, elettronico, artista oltretutto anche visivo, musicista che si è mosso anche lui tra minimalismo, la techno e alcuni elementi di sperimentazione più aperta, che li ha portati attraverso l'etichetta Leaf a far uscire diversi album. Abbiamo ascoltato l'album proprio di esordio nel 2002, Martes, che anche nel brano che abbiamo appena ascoltato intreccia elementi estremamente suggestivi, suoni particolari, l'inserimento di archi, campionati, pianoforti che richiamano dimensioni quasi riecheggianti le sonorità, le atmosfere di Sakamoto. È un musicista sicuramente molto poliedrico, che poi negli ultimi anni ha sviluppato collaborazione con altri autori per costruire addirittura delle colonne sonore per documentari, film, e anche collaborazioni con musicisti più squisitamente legati a sperimentazioni molto ardite, molto rumoriste. Sembrerebbe strano ascoltando il brano, molto pulito e anche molto suggestivo, ma in realtà il musicista Corona, Murkoff, ha cercato comunque sempre di sperimentare, di aprire le sue potenzialità, i suoi orizzonti anche verso altri linguaggi musicali. Da Murkoff apriamo un nuovo percorso nel nostro viaggio in Dancing Space, affrontando più squisitamente la dimensione dub, che andremo ad ascoltare dal disco, e qua è veramente dura perché è un titolo tedesco abbastanza impronunciabile, Waldkirchen, uscito nel 2012. Paul è il progetto, la sua techno dub, negli ultimi tempi si è anche molto avvicinato al dubstep, un musicista che anche egli ha sviluppato nella sua carriera musicale un percorso molto particolare. In realtà ricordiamo anche il nome reale di Paul, Stefan Belke, che poi ha portato avanti anche collaborazioni con artisti importanti elettronici e anche dance come Maurizio, ma anche Monolake e Vancouver. Musicista che come discografia ha avuto sicuramente produzioni molto, molto variegate, molto numerose. Si è aperta la sua diciamo produzione nel 1998 con l'etichetta Matador, per poi realizzare altri album nel corso degli anni zero e arrivare poi al disco che adesso andiamo ad ascoltare, una delle ultime produzioni appunto del 2012. Andiamoci dunque a immergere nella techno dub spaziale di Paul e ovviamente cosa posso dire? Buona dance? No, buon ascolto, ma se volete anche ballare, in qualunque posto voi siate, fatelo, perché fa sempre bene. Ve lo dico io che non lo faccio mai e soprattutto non faccio nessuna attività fisica e mi ritrovo con un mal di schiena allucinante. Buon ascolto con Paul. Thank you. We'll be right back. E siamo rientrati in diretta dopo aver ascoltato, oltre a Paul, dal disco del 2012 Wald Genshinken, un altro progetto che si muove nell'ambito techno dub, e si tratta del progetto Fluxion da Broadwalk Tales, uscito proprio quest'anno nel 2014. Un ottimo disco anche questo da seguire nell'ambito della techno dub, un ottimo album. Musicista e progetto questo Fluxion, in realtà è Konstantinos Soublis, musicista greco non particolarmente conosciuto ma in realtà molto interessante. Le produzioni si sono sviluppate soprattutto dalla fine del 2009 fino ad oggi, dunque sono usciti 4 album e un disco molto precedente nel 2001, poi è rimasto fermo in termini di produzioni dal 2001 al 2009. Molti EP prodotti negli anni zero, nella decade attuale, cioè gli anni 10. Musicista sicuramente interessante da seguire anche per il futuro, avendo comunque una produzione piuttosto recente. E da Fluxion ci spostiamo ed entriamo in un universo più legato alla Cosmice Music, anche se il progetto è abbastanza recente, ma i richiami sonori e anche concettuali sono molto molto legati agli anni 70 e alla dimensione del space rock, del space electronic music e soprattutto del crowd rock, essendo questi musicisti comunque tedeschi. Parliamo di Gut und Himmler dall'album SCOM del 2013, appunto un progetto sicuramente anche questo come Fluxion da seguire, un progetto molto molto interessante, Gut und Himmler, che hanno fatto uscire appunto negli ultimi anni degli album che si muovono anche in dimensioni pseudo dance, usiamo questo termine perché mi sembra anche un po' eccessivo definirli nell'ambito della dance music, ma hanno dei riferimenti ritmici e sonori che possono collegarsi anche a questo tipo di dimensione sonora, anche se appunto la loro progettualità è sicuramente molto più ampia e ha sicuramente degli sviluppi anche in futuro che sicuramente si possono anche muovere in dimensioni più squisitamente ambientali o più legate al crowd rock e alla space music elettronica. Andando a vedere un po', diciamo, la storia di questi due personaggi, essendo proprio due soggetti, Gut und Himmler, in realtà sono Gudrun Gut e Hans-Joachim Himmler, che poi appunto hanno una storia anche importante legata al passato della Cosmice. In termini di discografia, i progetti, oltre a questo disco che andremo adesso a ascoltare, almeno un brano da questo disco SCOM del 2013, le produzioni precedenti non sono particolarmente importanti, ma hanno fatto uscire, oltre a questo disco che andremo a sentire, proprio un'ultima produzione 500M, uscito proprio nel 2014, ma questo disco sembrava meno collocabile dentro la progettualità del percorso di stasera, dunque ho preferito inserire il disco precedente del 2013. Andiamoci dunque a sentire anche questo brano, entriamo in una dimensione più legata alla Cosmice per avvicinarci alla fase finale di questo flusso sonoro, con una progettualità completamente diversa che esce dalla dance, ma per chiudere in maniera anomala questo nostro viaggio. Intanto Gut und Himmler. Entrando in diretta, andiamo verso la fine del percorso sonoro Dance in Space di stasera di 451 frammenti sonori. Vi ricordiamo sempre, noi di 451, 451 intersezioni, 451 in frammenti sonori, di poter ovviamente accedere al nostro blog, no blog, per avere informazioni sulle puntate precedenti e anche ovviamente sull'ultima puntata che adesso stiamo trasmettendo. Ovviamente prima di mandare il prossimo progetto per chiudere il percorso di stasera, vi ricordo appunto il nostro indirizzo del blog 451frammentisonori.noblogs.org, dove troverete le varie puntate e il palinsesto della puntata stessa, dunque autori e brani e album che abbiamo inserito in trasmissione. Questa di mercoledì 18, anzi 17 dicembre, ormai è giovedì 18 dicembre, è l'ultima puntata di 451 frammenti sonori, che riprenderà probabilmente, ma inseriremo qualche notizia nel nostro blog, il 7 di gennaio, il mercoledì 7 di gennaio, anche perché ormai saremo immersi dentro le festività natalizie, non, però non si sa mai che qualche cosa possa succedere, che il buon Max Macchi abbia voglia e possibilità di fare la trasmissione, chissà mai. La vedo dura, perché i prossimi mercoledì cadono proprio il 24, la vigilia di Natale, il 31 di dicembre, dunque mi sembra un po' difficile. Per quanto riguarda invece 451 intersezioni, trasmissione del lunedì dalle 20 alle 21, è probabile che anche per questa trasmissione avremo chiuso le puntate, c'è la possibilità di lunedì prossimo, ma non è sicuro, dunque se siete interessati potete sempre accedere al blog e lì sicuramente metteremo qualche notizia rispetto alla puntata di lunedì prossimo, se la faremo o non la faremo, vedremo. Ecco, dopo questa puntata un po' diciamo zoppicante, un po' per la conduzione, un po' per certi mix non proprio venuti benissimo, ma chiedo venia, anche perché veramente ho provato a venire con questo mal di schiena lancinante e devo dire che è veramente dura stare in studio di registrazione e in studio radiofonico su uno sgabello che è il massimo della comodità, per cui la schiena sta veramente a pezzi, dunque faccio fatica e qualche errore sicuramente sarà accaduto. Ovviamente questa non è una scusante, però c'è un motivo per cui ci sono stati certi buchi e certi certi errori. In ogni caso chiudiamo il nostro percorso con una sorta di viaggio astrale, cosmico, ma fuori dalla dimensione dance, un viaggio rumorista con le chitarre distorte, alienanti e accecanti di Schneider TM, autore tedesco, dall'album Guitar Sounds uscito alla fine del 2013, l'ultimo lavoro di Schneider TM, autore sicuramente interessante, ha lavorato molto anche per colonne sonore e per dimensioni sonore connesse a installazioni. Schneider TM, che in questo brano appunto costruisce un'orchestra sonora tra effetti e chitarre che si vanno ad intrecciare, creando quasi una sorta di buco nero, un flusso verso un buco nero spaziale, che mi piaceva come chiusura di una puntata quasi interamente dedicata alla dance, collegata a dimensioni e a suggestioni di tipo cosmiche e spaziale. Con in sottofondo ancora il brano splendido di Paul da Waldenkirchen, chiudiamo dunque con Schneider TM e Guitar Sounds. Io ovviamente vi faccio gli auguri di un anno 2015 che sia il più possibile decente, perché qua chiedere grandi cose mi sembra un po' dura dopo questi ultimi anni di lacrime e sangue, e dunque speriamo in un 2015, dico, migliore, almeno decente, ma soprattutto un anno di lotta e di presa di coscienza di molte cose che non vanno in questa città e in questa nazione, in questa Europa, in questo bel sistema capitalistico mondiale che ormai ha abbracciato quasi tutti i continenti, tutti i paesi. Oggi la notizia di questa sorta di distensione tra Cuba e Stati Uniti, oltretutto quasi, diciamo, sviluppata e portata a compimento dal nostro grande Papa Francesco, ormai osannato da tutti, quasi fosse appunto il Messia, ma noi non crediamo al Messia e non crediamo ai papi, ma soprattutto questo tipo di distensione mi sa molto di presa alla gola nei confronti di Cuba, che ormai sta morendo di fame. Noi qui non è che stiamo a esaltare un sistema come quello cubano, che ha molti difetti, non è certamente un sistema comunista come lo vorremmo noi come comunisti libertari di 451 frammenti sonori, però insomma è abbastanza chiaro che con l'embargo e la chiusura e l'isolamento totale di Cuba alla fine ha dovuto trovare un modo per trovare una sorta di filo di coniugazione con il buon grande Obama, che fa molto per la sua popolazione afroamericana negli Stati Uniti. Basta vedere i risultati dei processi, l'incriminazione dei poliziotti che stanno facendo stragi di neri negli Stati Uniti. Ecco, è arrivata questa distensione, puzza anche molto appunto di presa alla gola o alla pancia, data la situazione molto grave in cui versa Cuba. Va bene, speriamo appunto in un 2015 di lotta e di presa di coscienza generalizzata, anche se non sono così ottimista, ma bisogna cercare di lanciarsi verso un futuro che possa essere migliore di questo presente piuttosto misero, piuttosto, come potremmo dire, minimale, usiamo sto termine. Bene, buonanotte con questo bel finale positivo per il Natale, per l'anno nuovo. Un saluto da Elisio Scarpa del 451 Frammenti Sonori. Chiudiamo con Schneider TM da Guitar Sounds. Ciao, ciao, ciao.